one, two, three. Check, one, two, one, two. Già Franco la scimmia, ecco, ecco, ci sei. Prevuta ce l'abbiamo questa cupetta di vino. Oh, io, yeah. Oh, chi c'è, chi c'è, chi c'è al 10? Vannino, prova gli strumenti. Ecco, ecco, cambio. Prova 1-3, 1-3. Attenzione, attenzione, Gianfranco la scimmia e Ciccio Panzerotto, ci siete. Prova 1-3, prova su 10 qua a San Pietro al Golfo della Ginara in modulazione in AM, ecco, ecco, cambio. Ecco, ecco, è me, l'urrar, subito la vedi, la sassa di l'urrar, subito la vedi nel Arghero. A me mi pareva una testata di banda che sia stata in aria. Ui, ui, ui, cro. Ecco, ecco, ecco, ecco, ma l'urrar, subito la vedi. A me mi pareva Gianfranco la scimmia, da cui si è tirato lo zappo da in pulla. Rocco, Vannino ci sei, Vannino ci sei, io stai provando valvoline e valvoleoni. Hai visto il razzo? Oi oi, a domani vado da fuera. Prova 1-3, prova, brecco, brecco, cambio. Albatros, Albatros, Porto Torre, se mi cuppi. Papatango, Papatango, ci sei, ora ora, brecco, brecco. Arricchiamo anche Falco Nero di sorso, Vannino e tutta la combriccola qua a San Pietro al Golfo della Ginara in modulazione sul canale 10, ora ora, brecco brecco e cambio. Schibibi Bobby, schibibi Bobby, schibibi Bobby, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, attenzione, attenzione, motrice passa 40 piedi, ci sei, mi ricevi, ora, ora, cambio, cambio, attenzione amico, motrice passa 40 piedi, mi senti? Beh ragazzi, ciao, ciao a tutti, vi saluto, adesso chiudo, chiudo, chiudo, chiudo tutto, ciao, ciao, non c'è nessuno, buon pomeriggio comunque, a chi è in ascolto, buon pomeriggio e ci vediamo alle prossime, ciao, ciao, Kappa Roger a tutti. Attenzione, canale 10, hola. Hola, stazione 10, c'è qualcuno? Avanti! Ciao Gianni, allora. Ciao Robe. Ho visto che l'altro giorno di sfuggita vi ho sentito e si sta ripopolando di nuovo un pochettino questo canale, dai. Ecco, però io vabbè c'avevo le radio accese ma stasera non è entrato nessuno, quindi era l'ascolto, dai, mi stavo guardando un po' il telefonino. Stavo ascoltando, magari entra qualcuno e sei entrato tu. Ma è già tardi, che ore sono? Sono le 8:25. No, sono entrato così adesso, sono entrato adesso a casa, adesso aspetto la radio, ho detto a vedere che ogni tanto c'è qualcuno sul 10. L'altro giorno abbiamo sentito di sfuggita, ho sentito a Claudio, c'era anche Fabrizio, c'era Gianfranco, ha proprio 5 minuti, dai, stava andato, forse tu eri andato via lo stesso, stavi andando via. Hai fatto bene, Robe. Adesso stai andando un po' di gente, in questo periodo, questi ultimi giorni stai andando un po' di gente. Speriamo che adesso di inverno col brutto tempo, mi auguro che ci sia un po' più di gente, ma comunque io tutto l'anno noi stiamo modulando, siamo pochi ma diciamo che ci siamo. Adesso diciamo voi già siete, tu sei uno di quelli abitué, dai. Prima c'era anche Natalino Buonanima, purtroppo adesso non c'è più. No, poi ho trovato ieri un ragazzo che abbiamo fatto un'operazione. Lui è un CB, dice l'altro giorno, ha fatto entra sul 10 di sorso, si chiama, non me la metto nemmeno come si chiama, Fabio forse, Fabio mi sembra che si chiami, di Socio, che poi conosceva Franco, conosceva l'altro che c'è di lì con le zone di lì, mi ha detto no, quello è mio fratello, perché ho detto, ho sentito di sfuggita l'altro giorno, mi sembra che si chiama Gianni il fratello, qualcosa del genere, ha detto niente, la sera sul 10, lui c'ha, mi sembra un'ora 68 e poi c'ha un'antenna, mi ha detto grande, 4 metri, non è riuscito a spiegarmi che antenna era, ha detto niente, la sera sul 10 c'è sempre, sì sì, adesso ci provo a entrare, lui si chiama Fabio, mi sembra di Coso Pirata, qualcosa del genere, e di Soso ne ho sentito diversi che stanno rispolverando gli apparecchi, ho sentito anche uno ieri che ha messo l'antenna, si ha messo una Game Master e stiamo provando. Oh, tu stai arrivando fortissimo, sei tranquillo o aiutato? No, oh, sono normale, però sono con un magnum di quelli a livelli, dai. Anche una bella modulazione, sei quasi 9.30, con i picchi arrivi a 9.30, fortissimo segnale. Cappa, è un bel apparecchio, di questi non ne fanno più. Questo costava allora... costava 700.000 lire questo apparecchio. Già lo so, erano costruiti su base di apparati radioamatoriali, diciamo, specificatamente sulla 27, ma sono molto larghi, facevano anche i 10 metri. Questo. E questo qui è il Magnum 2000DX, vai a vederlo, è bellissimo come apparecchio. E ogni tanto lo accendo, dai, accendo questo, poi c'è il Ruiz, il Galaxy, il Ruiz e questo qua. E poi in macchina uso il Magnum S980. No, non lo conosco, vabbè, Magnum ha sempre fatto, c'era anche l'S9, eppure facevano la Magnum, mi pare, così è. Il 980 è il modello che è uscito dopo e ha tolto praticamente, c'era un difetto, il Magnum S9 si rovinava il frequenzimetro, ha tolto quel difetto lì, il 980 ha montato un altro frequenzimetro che non dà difetti, capito? Vabbè, col tempo poi quando iniziano a correggerli, poi ci sono le evoluzioni di tutti gli apparati, è meglio così. No, ma Magnum ha sempre fatto grandi radio, anche Coso, lo stesso il President, la serie President, sono sempre stati belle radio. Che microfono c'hai, il suo o sta utilizzando un altro microfono? No, sto usando un altro microfono, Robe. È un nuovo microfono, il KLO, lo conosci? No, ma cos'è, da palmo o da tavola? Da palmo. No, fortissimo, sembra amplificata, una bella radio, ma cos'è amplificato il microfono? Questo microfono me l'ha consigliato Marco Condor, che l'aveva comprato anche lui e me l'ho ordinato anch'io. E mi ha detto che era un microfono veramente bello, che andava bene, ha letto le recensioni, tutti erano molto contenti, allora me l'ho preso anch'io, capito? Non costa manco molto, però è molto performante come microfono, sono a metà, mi se lo metto al massimo guai. No, complimenti, una radio perfetta, bella pulita, senza fronzoli, perché molte volte amplifichi e distorci, sei troppi acuti, troppo barattolona, no, questa è la voce tua, bella, naturale, forte. E io questo sono un po' che non lo utilizzo, mi qualche passaggio breve, mi sta ascoltando bene per l'intensità microfonica, va bene? Sì, per il resto vabbè, tutto bene. Sì, diciamo di sì, quello che va bene, dai. Non bisogna essere troppo pessimisti e sempre essere ottimisti, dai, anche se mai qualche cosettina c'è sempre, comunque non ci lamentiamo, dai. Poi se parliamo in ambito radioamatoriale, sì, già mi diverto, dai. Io c'ero l'altro giorno vicino a te, sono andato da quel gommista che c'è lì, dovevo fare la convergenza della macchina perché ho avuto un problema, mi si è rotto il piantone dello sterzo a 42.000 km, ma dimmi tu. Ma di lì devi stare attenti, non c'è da scherzare, proprio il piantone, si è staccato il coso, o che cosa? No, proprio la parte, diciamo, la scatola praticamente che comanda il piantone, si è bloccato, era diventato duro, come se non ci fosse servosterzo. Ma che macchina c'hai tu? La tipo 1004, 16 valvole turbo. Ho capito, cioè quello c'è il servostato elettrico, pensavo l'avessero risolto quel problema, lo sai quante ne abbiamo visto e fatto. Hanno iniziato dall'appunto, è un sistema eccellente perché elettrico consuma poca energia del motore, nel senso quelli idraulici ci hanno tirato un po' fuori, si trovano un pochettino di energia, questi elettrici sono eccezionali, perché però è capitato nelle prime punte che ha dato problemi, poi proprio ti si indurisce, ti si blocca. E una domanda, la batteria era a posto? Come? La batteria, perché è molto influenzabile dalla batteria, perché è gestito da una centralina, se non ha la tensione nominale la centralina, basta che ci siano mezzo volto di differenza, diventa duro, perché non ne avevo più sentito di problemi con quel servostato. La batteria da quanti anni ce l'hai? Io la batteria l'ho cambiata da poco, la batteria ce l'avrò 2 anni, l'ho cambiata da poco, nemmeno 2 anni forse. No, la batteria è perfetta perché è stata anche misurata la tensione sia a motore spento che a motore acceso. No, non era la batteria, era proprio il piantone, ho dovuto cambiare tutto perché vengono tutti insieme, sia il piantone che la parte elettrica. Più che altro era la parte elettrica, ma a parte non la vedono, vedono tutto il blocco. Era tipo, non lo so, dall'appunto facevano il kit di adattamento, di modifica, perché adesso per chiamare tutto intero, tutto il piantone, poi hanno fatto delle modifiche di concorrenza, non più la Fiat, poi si sboccolava, c'era una boccola in teflon che si consumava, parliamo negli anni 2000, primi anni 2000, poi l'avevano risolto il problema, perché brutto, anche lo stesso problema ce l'avevano per corsa. No, ma sono tipo la prima volta che lo sento, perché sono già macchine recenti. La batteria non è tanto la tensione, devi guardare lo spunto, perché io ti faccio una batteria nuova che ti segna la tensione nuova, nel senso che sembra efficiente, poi la metti sotto sfuoto e vedi che se ne scende. Dobbiamo guardare la resistenza interna e lo spunto, che con un tester non lo misuri, ci vuole un tester particolare che faccia quel tipo di operazione, perché te lo dimostro, quando vuoi io ti faccio una batteria che non serve, te la misuri e tu la vedi 12,8, guarda, questa è buona, la metti sulla macchina, la vai pure in moto e non parte. Ti è presente la vita fisiologica di una batteria per leggi fisiche, leggi chimiche, mediamente di 3 anni, poi ci sono quelle rinforzate quando sta a testa, poi ti durano un pochettino di più, poi ci sono anche tipologie di batterie AGM, altri tipi di batterie durano ancora di più, però la standard che ti mettono come primo impianto normalmente la vita è 3 anni, soprattutto quando c'è questi impianti con servostato elettrico, se non c'è la tensione nominale non agisce bene il servostato, se vai in protezione, e per cui diventa duro ed è un bel pericoloso, se ti capita un'operazione di sorpasso ti ammazzi, di nuovo a te già. Robe, a me mi è capitato in manovra, dai, meno male, sono tornato dagli punti, si la Sassari con lo sterzo duro, però se tu cammini non lo senti tanto, se devi manovrare che lo senti, capito? Lo senti molto in manovra, quando stai guidando non lo senti che è duro. No, niente, è stata fatta la diagnosi, Robè, la diagnosi di tutto quanto, e prima di cambiarlo ho fatto la diagnosi, alla Fiat costava 1000 euro, il pezzo solo più la manodopera. Chi te l'ha fatto il lavoro? Cosa? Il lavoro chi te l'ha fatto, se si può dire? Allora io lavoro, praticamente il mio meccanico era in Fiume, e quindi sono andato da un meccanico lì vicino dove praticamente mi si è guastato, sono andato lì vicino a dietro lo spin, dai, via Sintor Pinto. Ah, nella parte bassa, no, c'è un amico molto bravo, lui è, a parte che l'ha autorizzato anche, per cui tutti i difetti li conosceva, uffa, questo qua, e ho capito chi sta dicendo. Ah, perché non sono tutti che lo mancano, adesso ci arrivano tutti, ma prima all'inizio molta gente cambia tutto e poi non sapevano che si potevano fare delle altre operazioni. Allora, praticamente io l'ho preso, non l'ho preso nuovo, ma l'ho preso revisionato e mi è venuto sulle 630 euro in tutto, tra manodopera e costa, se no costava troppo, non mi costava una barca di soldi. Adesso, ma poi vedono quelli revisionati, garantiti uguali, molte volte ti ritirano il tuo, come le turbine, come i compressori dell'aria condizionata, come gli alternatori, se li ritirano ti fanno un prezzo molto favorevole e tu li consegni il tuo, tirando un prezzo garantito come nuovo, lo stesso, tutti i pezzi usurabili sono tutti cambiati, no, ormai lo stanno facendo spesso, soprattutto sulle turbine che prima costavano una follia, adesso si sono abbassati i prezzi e più si sono abbassati ancora di più quando tu consegni la tua turbina vecchia. C'hanno il guadagno da quello vecchio, vero? No, lo rimettono a posto, loro cambiano tutto, cioè tutte le parti in movimento, le giranti, i cuscinetti, le cose, te lo smontano a zero e te lo rifanno nuovo, perché il discorso del coso, della turbina, è tutto il corpo che viene fatto in presso fusione e la lavorazione è molto delicata, è quello che ti fa costare, non solo gli elementi di movimento, a parte vabbè, i materiali che sono di altissima resistenza, temperature, usura, eccetera, eccetera, frizione, eccetera. Però chi costa quando costruisci un turbo? È tutto il corpo, perché è fatto con materiali, oltre che essere sofisticati, sono fatti con tecnologie molto molto, diciamo, dispendiose, farle costa tanto tempo e anche non è semplice costruire una turbina, mentre cambiare i pezzi, la girante, cuscinetto, la palette, eccetera eccetera, li tulli, li sfili, vanno calibrati, naturalmente ci vanno, che girano più di 100.000 giri, ci sono strumenti assolutamente super precisi, però il pezzo più costoso è tutto il corpo della turbina. Il problema è che dopo che ho fatto il lavoro rimaneva la spia del servo stesso accesa. Per spegnere questa spia, più che la Fiat non poteva farlo, perché hanno un attrezzo particolare loro che fanno, che praticamente resettano, tolgono il numero che c'era prima di serie e lo rimettono nuovo, capito? Devono praticamente prima togliere quello che c'è del vecchio piantone e mettere l'altro, e quello lo può fare solo la Fiat, 120 euro per fare quel lavoro. Adesso c'è una diagnosi specifica per fare quel tipo di lavoro, come le armeghe, le centraline armeghe, eccetera eccetera. Tu hai fatto una centralina, molte diagnosi, noi ce l'abbiamo, molte diagnosi non le leggono e bisogna fare delle procedure diverse e molte volte non riesce a trarlo, qualcuno fa altri giri, diciamo, giri viziosi per cercare di attirare le spie, uno che sa lavorare su software e cose del genere, adesso è tutto computer e deve avere anche un'intelligenza, non è dire avere la diagnosi, quelli che vanno, che tutto pigliano, schiacciano un tasto, azzerato, anomalia scompare, quelli diciamo più bravi e più evoluti che entrano via software, via OBD, attaccano il computer ed entrano con altri sistemi più macchinosi, ma riescono ad arrivarci lo stesso, come quelli che entrano per ottimizzare le prestazioni, per aumentare la pressione del turbo, fanno tutto quello che vogliono ormai via software, però ci vogliono capacità e soprattutto tante cose, inutile dirle qua. Bisogna essere professionali in certe cose, dai. I meccanici di una volta non le sanno fare queste cose, ci vogliono meccanici adesso aggiornati che fanno i corsi sia di elettronica che di meccanica. Il mio meccanico fa sia l'uno che l'altro, è aggiornato. Quando io gli ho portato la macchina, perché prima l'ho portato a lui, poi mi ha detto guarda io devo andare in ferie da domani, quindi già mi dispiace ma non te la posso fare io, se trovi qualcuno che te la fa, bravo, te la fai fare, non c'è problema, io non mi offendo. Però praticamente sono andato dalla persona che non mi ha soddisfatto, perché io gli ho detto tu a me la macchina me la devi consegnare con le spie spente, non con la spia accesa, e poi farmi andare a me a farla. Gli ho portato la fattura e mi ha detto che se io mi pagavo la fattura non ci avrebbe guadagnato nulla, capito? Vabbè già, cosa vi ti dico. Adesso si chiama meccatronica, io ho i miei nipoti che loro lo fanno tutte queste cose qua. Uno si è diplomato all'istituto industriale proprio in meccatronica e poi hanno fatto i corsi, costano cifre esorbitanti e devi aggiornarti continuamente, poi devi connettere perché sono tutti monopolizzati queste cose, ci sono i siti, diciamo la Texa, la Magneti Marelli, cioè tutti devi collegare uno di questi cose qua e loro ti danno tutte le informazioni, perché a pagamento ogni operazione devi cambiare il fappo, devi sostituire il catalizzatore, devi qualunque cosa devi fare, ormai è tutto quanto, ci sono tanti codici, tante informazioni, e se tu non paghi, anche per una semplice spia, certe volte tu devi chiedere a questi qua, ti danno l'autorizzazione, si connettono loro, tac, via remoto, e ti aggirano certe cose, ma è sempre peggio, infatti le macchine stanno solo peggiorando, problemi di meccanica non ne trovi mai, raramente vedi un motore rompersi, ma proprio raro raro, i problemi sono soltanto i sensori e chi gestisce queste cose qua, le centraline, e purtroppo è così, meglio avere una macchina per certi versi a carburatori, oppure le prime iniezioni che sono uscite, con semplicità aggiusti con niente, queste nuove, se non hai attrezzature è finito, se volte ce ne portano di gente che poi non cava a piedi, che l'aria condizionata come scalda la macchina non funziona, o la tappeta elettrica non so cosa li combina, eccetera, eccetera, tante cose, e lì devi avere anche un po' di fantasia, cercare di ragionare e vedere di risolvere il problema, ed è sempre sempre peggio, perché prima erano 4-5 i problemi, ma adesso ce ne sono centinaia, le centraline si superano le centinaia adesso in certe macchine, macchine senza salire a livelli eccelsi, dai 100 centraline in su, è tutto su circuiti e cose particolari, adesso cose che abbiamo fatto l'altro giorno, che ci ha fatto impazzire, un sistema non funzionava un coso, un tergicristallo di questo appunto, e alla fine era una scheda, su due violucci, era in tilt, abbiamo cambiato, guarda, ci ha fatto uscire di testa, ed era una semplicità per dire, dice, ma ecco, stiamo parlando di un deviolucci, e di lì c'era un'anomalia di lì, non riusciva a gestire, scaldava un componente, alla fine poi si è sostituito e tutto, e questa è la cosa più semplice, aspetta quando vai a gestire tu il fappo o le cose del genere, quando ci sono sistemi che controllano la pressione dell'aria e la quantità dell'aria, carburante, eccetera eccetera, è tutto un problema. Fino a te già, un paio di passaggi poi devo abbandonare. E anche io sto per andare, Robe. Ma io preferivo quando c'avevo 127, quando c'avevo la Opel Station Vego, non mi ha dato problemi con le macchine di a me. La Opel, cazzo, gli ho cambiato solo una volta il filtro particolato, una volta solo, perché potevo anche evitare di cambiarlo, ma l'ho cambiato perché non prendeva bene l'accelerata e mi ha cambiato quello lì, mi ha fatto pagare 80 euro alla Opel, ma guarda, io non ho mai avuto un problema con quella macchina, solo tagliandogli gli ho fatto, né cambiato marmitta, né frizione, nulla. Lo so, era diverso però, adesso c'è troppa gestione elettronica, se vai in macchine soprattutto tedesche dove c'è tanta innovazione, tante gestioni particolari, è tutto sotto centraline, ma non una, ho detto più di 100, c'è la Mercedes che ne ha 143 di centraline per gestire tante cose, poi se sali negli topo di gamma guai, quelle che ti gestisce l'inclinazione del sedile, il riscaldamento del sedile, lì ci sono altrettante centraline, poi pressione pneumatica, un'altra centralina, faro adattativo, faro di quello, il sensore di pioggia, sensore di parcheggio, ci sono centinaia di centraline, e basta una scherza, uno scherzettino, una fesseria e tu impazzisci, perché molte volte ti dice sì, si cerca, devi cercare tutti i cablaggi, adesso sono tutti i cablaggi a pettine, stanno montando anche le fibre ottiche adesso, guarda, sempre peggio, e se non ti aggiorni chiudi l'officina e te ne vai a fare altre cose. Ma voi state facendo anche meccanica adesso, Roberto? I miei nipoti lo fanno, piccola meccanica, soprattutto elettronica, meccatronica. Ma sempre nell'officina tu? No, sono loro, vabbè, gli sto dando un appoglio, loro stanno aprendo un'attività, adesso fanno tante cose, anche ganci traini, televisioni carrelli, hanno chiesto l'autorizzazione per tante cose. Ah, capito. Comunque fanno uscire di testa queste macchine, magari una cazzata, io ce l'avevo 3 mesi ferma, perché mi è successo alla fine di luglio, ad agosto il mio meccanico è andato in ferie, ad agosto sai che sono tutti chiusi, è un casino qua, arrivare i pezzi ci hanno messo un me, e poi gli hanno mandato il pezzo sbagliato che non andava bene, te l'ha rimandato indietro, ha dovuto aspettare che ne arrivasse un altro. Guarda, io ero senza macchina tutta l'estate. Già lo so, poi brutto, se ti trovi a piedi non hai la sostitutiva, è finito. Il problema di molti di questi meccanici qua, c'è molta improvvisazione, esatto, la faccio io, non ti preoccupare, e si trovano poi in difficoltà perché non riescono ad andare avanti. Io dico, a noi è capitato un lavoro importante di una Ferrari, c'erano certe cose a livello di, perché ha avuto danni importanti anche al MEG e cose del genere, no, noi ci fermiamo qua, io ti faccio a carrozzeria tutto il discorso della gestione degli assetti, perché le Ferrari c'hanno tutti i sistemi di controllo di assetto, controllatore con assetto, sospensioni calibrate, lo lascia perdere, ti dico dove devi andare io, non qua in Sardegna, perché lui voleva andare in Sardegna, a Cagliari, ti lascia perdere, vai da altre persone, conoscono il problema, quando fai quel tipo di macchina, io ti fare l'ingordo, mi faccio vedere, bello, bravo, e poi cosa fai? Non mi devo fare l'esperienza sulla macchina degli altri, soprattutto quel tipo di macchina. Beh, se non hai, diciamo, su quella macchina lì, non hai capacità su quelle macchine lì, è meglio che la mandi da una persona che la sappia fare. È inutile che ti metti per fargli una cagata, scusate la frase. Ma va bene, adesso va bene, grazie a Dio, va bene. L'unica cosa che mi è successa è che andando a prendere niente ho preso un fosso. Ne ho scartato due, ne ho preso un altro che era più grosso e mi ha praticamente segnato la pressione dei pneumatici. Sono andato l'altro giorno a farglielo vedere, ci voleva cerchione e copertone nuovo. Va bene, dai. Già ci penso. Il cerchione però non c'aveva nulla, secondo me era solo il copertone, perché ne ha fatto appena appena di bolla. Ne ho messo appena appena di silicone tra il cerchione e il coso, il copertone non ha più perso. Non si fa neanche così già. Di lì su cerchi lega c'hai tu, così? Sì, cerchi lega. Allora di lì si smonta la gomma, si pulisce bene bene con la carta abrasiva, prima scrussi con la, perché c'è un'ossidazione e si forma di lì. Basta che intacchi l'alluminio e il magnesio, molte volte sono, si formano dei granelli, microgranuli, li vuole raschiato bene bene, prima un po' con la grossa per togliere questa ossidazione e poi con la carta sottile, poi si dà una pattina di una vernice particolare spessa e vedi che la gomma attacca, ne facciamo tantissime no, di queste, ce le portano, è inutile fare questo discorso, stai dicendo tu, perché il silicone rimane sempre elastico, poi col tempo cambia di coso, di composizione, dai, si secca, diventa, non è una cosa sicura. Ma io penso che sia più che altro la gomma che il cerchione, perché il cerchione non c'è, c'è solo un graffettino e basta poi, ma non c'ha nulla, non è deformato, perché quando l'ha tolto, perché io me la volevo riparare, però metto, non si può fare nulla, però mi hanno detto che da niulo le fanno, le riparano queste cose. Ma cosa stai parlando? La gomma si cambia, se è nella spalla rotta cambia, non stare a fare cose del genere, perché le tele ce le ha superficialmente, dove tocca l'asfalto, lateralmente non c'è niente, se no ti si scoppia camminando, mi mani più di un altro fosso, ti si apre e esplode la gomma. A me appena appena di gomma, proprio poca poca, non è che sia molto. Vabbè, ma sulla sicurezza io sono sempre il primo, mai fare economie. Tu puoi fare economie su un fanalino sporco, su uno sportello graffiato, ma le ruote, freni, sospensioni e tutte quelle cose lì, assolutamente. Se c'è qualche dubbio si cambia tutto, non si può vivere col dubbio. Ma infatti la dovrò cambiare, per il momento ho lasciato così perché dovevo farli anche tagliando, avevo spese, eccetera. Però la cambio, sicuramente la cambio. Poi ho visto che su internet ci sono gomme a prezzi stracciati, chissà come vanno con le gomme. Caccia Billy, non tardare a comprare quelle gomme, sono gomme vecchie di qualche anno, ti vedo le gomme dopo 3 anni diventano legnose, poi saranno gomme di 4-5 anni, molte volte le ristampano, le ho viste a mio cugino personalmente, l'hanno fatto, gli hanno corretto la scadenza, perché se tu guardi le gomme ci sono dei dati, sono 32esima settimana del 06, vuol dire del 2006, eccetera, ci sono dei numeri particolari di riconoscimento, codici di velocità, ci sono gomme che te le fanno passare per nuove, invece sono scalfite di nuovo, scolpite di nuovo, stabili, le gomme pagare 10 euro in più ma prendile qua, soprattutto non prendere gomme cinesi, gomme puoi prendere di seconda scelta, non dico le Bridgestone, le Michelin, però esistono le Continental, Barum, gomme che sono buone, magari non ti fanno i chilometri di una Michelin, però cosa te ne affutti, però c'è sempre una gomma valida, queste gomme da prezzo lasciale perdere, fidati due gomme buone e buone. sei sicuro? Io Robe mettevo o Michelin oppure Firestone, mettevo questi due tipi di gomme nelle macchine mie, ho sempre messo questi due tipi di gomme, ma queste che ho io costano 200 euro l'una, sono 225/17. Lo so, purtroppo quando c'è gomme di quelle misure, sono fuori misura standard, le fanno pagare di più. Vai, comprate una ruota da 19 o da 21, che ce ne sono talmente poche, devono rifarsi per costruire quelle gomme. Non è come costruire una gomma da 15, ne fai 100 milioni, di quelle varie ce ne sono 5 milioni, devi mettere in porto un impianto per costruire quella gomma lì, rifare tutta un'operazione di cose, alla fine devono, non ci devono rimettere, te le fanno pagare, non dico il doppio, ma in proporzione almeno un 40% di una gomma magari da 16 di grande movimentazione, così, è come i ricambi di concorrenza, se tu prendi un ricambio di punto, un paraurti lo paghi tanto, dici ma pesa 3 kg questo paraurti, e poi prendi lo stesso peso di un'altra macchina, di una Daewoo per dire, che non c'è mercato, te la fanno pagare 4 volte tanto, e così sono le gomme. Ma io lo seguo uno, un carrozziere su TikTok, non so se l'hai mai visto, 2.0 mi pare si fa chiamare, e ha detto una volta che praticamente spendi di più a comprare i pezzi di una macchina che a comprare la nuova, secondo cosa devi mettere. Assolutamente vero. Allora io ho fatto un seminario una decina di anni fa, forse anche di più, 15 anni fa, proprio su queste cose qua, non so se te l'avevo detto. Allora, le macchine, una casa costruttrice guadagna dall'8 al 12% finiti dal momento che costruisce, parliamo quelle che non sono in perdita, perché ci sono dei modelli che vanno in perdita, però vengono compensati da altri modelli. Parliamo nel caso che sia positivo il guadagno, dall'8 al 12% ci hanno di guadagno la casa costruttrice, tolti tutti i giri, operai, spese, pubblicità, usura, aggiornamenti, eccetera, eccetera. La Mercedes guadagnava un po' più degli altri, il 12% rispetto alla media dall'8 al 12. I ricambi c'hanno una ricarica, ci avevano, stiamo parlando oltre 15 anni fa, del 300%, per dire un pezzo che allora costa 100 lo vendono 300, questa era la media di ricarica. Non bastava il ricaro dei ricambi, allora hanno costruito per dire un bullone, un dado di una forma particolare brevettata che dura 5 anni il brevetto, e tu per montare o togliere quel bullone devi utilizzare una chiave specifica che te la fanno pagare 200 euro, è già capitato anche a noi quando le facette particolari, dopo 5 anni lo stesso attrezzo da 250 lo pagavi 30 euro per dirti, l'ha fatto l'Audi, la fa la Fiat. Non basta quello, allora ti fanno prima di fare la distribuzione ci vogliono delle dime specifiche, perché prima nella distribuzione ti mettevano i punti, il punto moto superiore, inferiore, e riuscivi a ragionare nulla, adesso ti devi comprare la dima, e con la dima te la vendono per dire 1000 euro, per fare un esempio, un pezzo di ferro, e così funziona, loro guadagnano da quello. Poi c'è l'usura programmata, ci sono degli oggetti tipo la sacrisalli, cose del genere, dopo 10 milioni di movimentazioni si devono rompere, fuori dalla garanzia naturalmente le calcolano, e di lì guadagnano da quei pezzi lì. Infatti dice, ma perché si spaccano queste sacrisalli, noi facciamo centinaia, e tu dici, ma perché non lo fanno in metallo quel supporto di lì, anziché fare in plastica che a forza di scorrere si rompe, perché lo fanno perché si deve rompere, è così. E a me la macchinetta mi si è già rotta, quella al sacristale, sta dicendo. Eia, fortunatamente riesci a trovare di concorrenza molte macchine, recuperi il motorino e cambi solo il meccanismo e risparmi un po' di denaro, però se no, se vai a comprare l'originale ti hanno il pezzo intero, io una tavoletta di panna lo pago per dire 80-100 euro, vai a comprare l'originale costa 250 euro, perché te lo hanno completo col motorino eccetera, anzi devo dire la panna mi sa che ce l'ha già il motorino, ma parliamo di una grande punto che non lo sa più il motorino, eccetera, e di lì loro ci guadagnano a quello. Fatta apposta, perché le usure delle valvole GR, dei dimimi, tutte queste cose, è tutto fatto apposta per Roma. Dice, ma perché non lo fai in un altro modo, il condotto più largo, il passato? Allora perché non ci vai più a cambiare il pezzo. Ma è vero che queste GM, queste macchine che stanno facendo adesso non si trovano in pizzi? Le DR, no, ho detto valvole EGR, non DR. No, ma dico, queste macchine qua mi è venuta in mente quando hai detto quella farina. queste macchine MG OGM, come si chiamano, stava dicendo quel carrozziere, sono belle macchine, fatte bene, rifinite bene, ma se vai a prendere il pezzo di ricambio non lo trovi. Infatti questo paraurti ha detto lo devo riparare io, anche se è spaccato, l'ha riparato praticamente, gli ha messo dei punti in ferro e poi praticamente l'ha saldato con una tipo una colla a caldo, rimane. Lo so, adesso ci sono dei sistemi, vabbè, noi li saldiamo con il cannello all'aria calda, con le bacchette, ma molti che non hanno l'attrezzatura usano quelle specie di graffette e poi ci mettono della colla bicomponente, un altro tipo di lavoro, vabbè, ognuno fa quello che vuole. No, le DR, allora, le macchine cinesi, queste che se ne vedono sempre di più, sono costruite bene, devo dire, anche qualitativamente, a parte qualcuna che hanno motori, diciamo, solo a benzina, non hanno il diesel, sono ibride molte volte, oppure totalmente elettriche, qualcuna, moltissime, tipo la MG, hanno solo motori a benzina con l'impianto a gas, e quello è un limite, non hanno tirato fuori dei diesel, non sono all'altezza di costruirle, ed è molto difficile, molte volte molto in ritardo, soprattutto alle MG, avere dei ricambi. DR, così così, diciamo, c'è di peggio e c'è anche di meglio come disponibilità dei ricambi, perché l'importatore è abbastanza grosso, ma l'MG è ancora piccolo. La Evo, che è lo stesso gruppo della DR, è gestita anche dal gruppo Stellantis, per cui si dovrebbe prevedere qualche ricambio, arriva un po' prima, però adesso con tutto questo giro dei sdoganamenti, comunità europea eccetera eccetera, è un po' più problematico. Se c'è qualche pezzo complicato è un problema, a me sono capitati anche 2-3 mesi per avere i pezzi. Se c'è un paraurti e puoi camminare in affutti, ma se c'è un pezzo, una centralina, qualcosa di elettronico, lo devo dire, la stessa cosa è capitata anche con la Renault Clio, è stata più di 6 mesi per avere un pezzo di ricambio, un faro non era disponibile, perché questo qua era un faro a LED, lo facevano uno stabilimento in Ucraina, c'è stata la guerra, sono stati 6 mesi per avere il faro, e questa signora continuava a camminare col faro spaccato. Oppure la Kia, lo stesso, i pezzi tardano un pochettino, però anche la Fiat, molte volte che dice ce l'abbiamo qua, eppure molte volte ricambio. I cinesi devo dire un po' di più degli altri, ma speriamo bene adesso. Ma la Fiat, diciamo che hanno trasferito fuori tutte le catene di montaggio della Fiat. Sì, gli stabilimenti più importanti sono all'estero per questione di costi, e qua l'operaio costa molto di più rispetto a uno in Polonia, in Turchia o in Sud America, è quello il discorso. Queste multinazionali, loro guardano ai loro interessi, non ne frega niente, l'operaio lo pagano per dire uno stipendio di 1500 euro al mese in Italia, mentre che fa lo stesso lavoro di un operaio di 300 euro, guardate, posso dire in Turchia, in Albania, ma in Albania non ce ne sono impianti, ma in Polonia magari prende 700-800 euro. Non parliamo dei paesi del terzo mondo, che di lì è peggio, tutta la bassa, gli arredamenti delle macchine, tutte le minuterie, quelli che sono costruiti, erano costruiti in maggior parte in Italia, la manifattura, però adesso stanno facendo i paesi del terzo mondo, e di lì, cavolo, quando vai in India, Vietnam o Cambogia, che te lo fanno a un decimo di quanto lo paghi tu, è come il discorso dei telefonini o degli abbigliamenti, vanno lì perché costa meno, e loro hanno sempre lo stesso guadagno, moltiplicato. Vabbè, dai, ti devo lasciare che devo portare giù il cane, se no questo qui mi ha fatto piacere, dai, fatti sentire ogni tanto. Ci sentiamo, buona serata. Ciao, adesso vado dall'altra parte, ciao già, saluto anche chi fosse in ascolto, canale 10.